Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Il conformista di Alberto Moravia. 21esima puntata. Come Marcello entrò in casa di Quadri, fu subito colpito dalla differenza con l'appartamento in cui l'aveva visto la prima e l'ultima volta a Roma. Già il palazzo, situato in un quartiere moderno, in fondo ad una stradina serpeggiante simile, coi molti balconi rettangolari sporgenti dalla liscia facciata, ad un cassettone con tutti i cassetti aperti, gli aveva dato il senso di un vivere ovvio e anonimo, informato ad una specie di mimetismo sociale. Come se Quadri, stabilendosi a Parigi, avesse tenuto a confondersi con la massa tutta eguale della borghesia agiata francese. Poi, una volta entrato, la differenza si accentuò. La dimora romana era vecchia, buia, ingombra di suppellettili, di libri e di carte, polverosa e negletta. Questa, invece, luminosa, nuova, pulita con pochi mobili e nessuna traccia di studi. Aspettarono alcuni minuti nel salotto, una stanza spaziosa e nuda con un solo gruppo di poltrone, confinate in un angolo intorno ad un tavolo dal piano di vetro. Unico particolare di gusto meno solito, un grande quadro appeso ad una delle pareti, opera di un pittore cubista. Una mischia fredda e decorativa di sfere, cubi, cilindri e parallele variamente colorate. Di libri, quei libri che avevano tanto colpito Marcello a Roma, neppure uno. Sembrava, pensò, considerando il pavimento di legno lucidato a cera, le lunghe tende chiare, le pareti vuote, di essere sulla ribalta di un teatro moderno, nella messa in scena sommaria ed elegante allestita per un dramma di pochi personaggi e di una sola situazione. Quale dramma? Senza dubbio il suo e di Quadri. Ma mentre la situazione gli era ormai nota, gli pareva, non sapeva perché, che non tutti i personaggi si fossero svelati. Qualcuno ancora mancava e chissà, forse il suo intervento avrebbe modificato completamente la situazione stessa. Quasi a confermare questo oscuro presentimento, la porta in fondo al salotto si aprì e invece di Quadri entrò una giovane donna. La stessa, probabilmente, come pensò Marcello, che gli aveva parlato in francese al telefono. Si avvicinò attraverso il pavimento specchiante, alta e singolarmente elastica e graziosa nel modo di camminare, in un bianco vestito estivo dalla gonna scampanata. Per un momento Marcello non poté impedirsi dal guardare, con una specie di furtivo piacere, all'ombra del corpo di lei, profilata nella trasparenza dell'abito. Ombra opaca, ma dai contorni precisi, elegante, come di ginnasta o di danzatrice. Poi levò gli occhi al viso e fu sicuro di averla già veduta prima di allora, senza tuttavia spiegarsi dove né quando. Ella si avvicinò a Giulia, le strinse le due mani con familiarità, quasi affettuosa, e le spiegò in italiano corretto, ma con un forte accento francese, che il professore era occupato e sarebbe venuto tra qualche minuto. Meno cordialmente, come parve a Marcello, anzi quasi di sfuggita, lo salutò di lontano, quindi li invitò a sedersi. Mentre ella discorreva con Giulia, Marcello la studiò attentamente, curioso di definire a se stesso il ricordo oscuro per cui gli pareva di averla già conosciuta. Era di alta statura, con mani e piedi grandi, spalle larghe e vita di incredibile snellezza, cui davano risalto il petto gonfio e i fianchi ampi. Il collo, lungo e sottile, sorreggeva un viso pallido, privo di belletto, poco fresco e come macerato, sebbene giovanile, dall'espressione vispa, ansiosa, inquieta e pronta. Dove l'aveva già veduta? come se si fosse sentita osservata, ella si voltò improvvisamente verso di lui. E allora, dal contrasto tra lo sguardo inquieto e intenso e la serenità luminosa dell'alta fronte bianca, capì ad un tratto dove l'avesse già incontrata, o meglio, dove avesse incontrato una persona simile a lei. Nella casa di tolleranza di S, quando, rientrato nella sala comune per prendervi il cappello, aveva trovato Orlando in compagnia della prostituta Luisa. A dire il vero, la somiglianza consisteva tutta nella particolare forma, bianchezza e luminosità della fronte, simile anche in costei ad un diadema regale. Per il resto, le due donne differivano sensibilmente. La prostituta aveva la bocca larga e sottile, questa piccola, carnosa, serrata, paragonabile, come pensò, ad una rosa esigua dai petali fitti e un po' avvizziti. Altra differenza: la mano della prostituta era muliebre, liscia, carnale. Questa aveva invece una mano quasi d'uomo, dura, rossa, nervosa. Finalmente la prostituta aveva l'orribile voce rauca così frequente tra le donne della sua professione. La voce di questa invece era secca, limpida, astratta, piacevole come una musica razionale e sottile, una voce di società. Marcello notò queste somiglianze e queste differenze. E poi, mentre la donna discorreva con la moglie, notò anche l'estrema freddezza del suo atteggiamento verso di lui. Forse, come pensò, era stata informata da Quadri dei suoi passati sentimenti politici e avrebbe preferito non riceverlo. Si domandò pure chi potesse essere. Quadri, a quanto ricordava, non era sposato. Costei, dai modi ufficiosi, si sarebbe detta una segretaria o quantomeno un'ammiratrice in veste di segretaria. Ripensò al sentimento provato nella casa di S, quando aveva veduto la prostituta Luisa ascendere la scala al fianco di Orlando. Sentimento di rivolta impotente, di pietà straziata. E tutto ad un tratto capì che quel sentimento non era stato in realtà che desiderio dei sensi mascherato da spirituale gelosia, il quale adesso gli tornava intero e senza più maschere per la donna che gli sedeva di fronte. Ella gli piaceva in una maniera nuova e sconvolgente, ed egli desiderava piacerle, e quell'ostilità che traspariva da ogni gesto di lei l'addolorava acerbamente. Disse alla fine, quasi suo malgrado, pensando non a Quadri ma a lei: «Ho l'impressione che la nostra visita non faccia piacere al professore. Forse è troppo occupato». La donna rispose subito, senza guardarlo: «Al contrario, mio marito mi ha detto che vi vedeva con molto piacere. Si ricordava benissimo di lei. Tutti coloro che vengono dall'Italia sono bene accolti qui, è vero. È molto occupato, ma la sua visita gli è particolarmente gradita. Aspetti, vado a vedere se viene». Queste parole furono pronunziate con una sollecitudine inaspettata che riscaldò il cuore di Marcello. Come ella fu uscita, Giulia domandò, senza tuttavia mostrare alcuna curiosità: «Perché credi che il professor Quadri non abbia piacere a vederci?» Marcello rispose con calma: «Me l'ha fatto pensare l'atteggiamento ostile di questa signora». «Strano!» esclamò Giulia. «A me ha fatto invece l'impressione contraria. Mi è sembrata così contenta di vederci, come se ci conoscessimo già. Ma tu l'avevi già incontrata prima?» «No», egli rispose con la sensazione di mentire. «Mai prima di oggi. Non so neppure chi sia». «Non è la moglie del professore?» «Non so. Quadri non mi risulta che fosse sposato. Sarà forse la sua segretaria». «Ma si è detto mio marito!» esclamò Giulia sorpresa. «Dove eri con la testa? Ha detto proprio questo: mio marito. A che pensavi?» Così non poté fare a meno di riflettere Marcello. La donna lo turbava al punto da renderlo distratto fino alla sordità. Questa scoperta gli fece piacere. E per un momento, stranamente, desiderò di parlarne a Giulia, come se ella non fosse stata parte in causa, ma una persona estranea a cui avesse potuto confidarsi liberamente. Disse: «Mi ero distratto. La moglie? Ma allora deve essersi sposato da poco. Perché? Perché quando l'ho conosciuto era celibe. Ma tu e Quadri non vi scrivevate? No, era il mio professore. Poi andò a stabilirsi in Francia e oggi lo vedrò per la prima volta dopo di allora. Curioso, credevo che foste amici. Seguì un lungo silenzio. Poi la porta su cui Marcello fissava gli occhi senza impazienza si aprì e sulla soglia apparve qualcuno in cui a tutta prima non riconobbe Quadri. Quindi dal viso gli occhi andarono alla spalla, ritrovò la prominenza che l'alzava fino quasi all'orecchio e comprese che Quadri si era semplicemente tagliato la barba. Adesso ritrovava la forma bizzarra, quasi esagonale del viso, quella sua consistenza unidimensionale come di piatta maschera dipinta e fornita di parrucca nera. Riconosceva pure gli occhi, fissi e brillanti, cerchiati di rosso, il naso triangolare, simile ad un batocchio, la bocca, informe, specie di cerchio di carne rossa e viva. Sola novità, il mento, un tempo nascosto dalla barba. Era piccolo e storto, profondamente ripiegato sotto il labbro inferiore, di una bruttezza significativa, forse denotante un carattere dell'uomo. Quadri, invece del vestito da banchiere che Marcello gli aveva veduto la prima e l'ultima volta che si era incontrato con lui, indossava, con una preferenza di gobbo per le tinte chiare, un abito sportivo color tortora. Sotto la giacca aveva una camicia a scacchi rossi e verdi da buttero americano e una cravatta vistosa. Disse, venendo incontro a Marcello in tono cordiale e al tempo stesso del tutto indifferente, «Clerici, non è vero? Ma sicuro mi ricordo benissimo di lei, anche perché fu l'ultimo studente che venne a trovarmi prima della mia partenza dall'Italia. Sono molto contento di rivederla, Clerici». Anche la voce, pensò Marcello, era rimasta la stessa, dolcissima e insieme casuale, affettuosa e insieme distratta. Intanto presentava la moglie a Quadri, il quale, con galanteria forse ostentata, si inchinava a baciare la mano che Giulia gli tendeva. Come si furono seduti, Marcello disse con impaccio: «Sono in viaggio di nozze a Parigi e allora ho pensato di venire a trovarla. Era il mio professore, ma forse l'ho disturbata». «Ma no, caro figliuolo», rispose Quadri con la solita dolcezza struggente. «No, al contrario, mi ha fatto molto piacere. Ha fatto benissimo a ricordarsi di me. Chiunque venga dall'Italia, se non altro perché mi parla nella bella lingua italiana, è ben accolto qui da me». Prese dal tavolo una scatola di sigarette, ci guardò dentro e, vedendo che non ne conteneva che una, l'offrì con un sospiro a Giulia. «Prenda, signora, io non fumo e neppure mia moglie, e così ci dimentichiamo sempre che gli altri amano fumare. Dunque le piace Parigi? Immagino che non sia la prima volta che viene». «Così», pensò Marcello. Quadri voleva fare la conversazione convenzionale. Rispose per Giulia: «No, è la prima volta, per tutti e due». «In tal caso», disse Quadri sollecitamente, «vi invidio. È sempre invidiabile chi capita per la prima volta in questa bellissima città e per giunta in viaggio di nozze, e in questa stagione la migliore per Parigi». Sospirò di nuovo e domandò con cortesia a Giulia: «E che impressione le ha dato Parigi, signora?» «A me?» disse Giulia, guardando non a Quadri ma al marito. «Veramente non ho ancora avuto il tempo di vederla, siamo arrivati ieri». «Vedrà, signora, è una città molto bella, bellissima proprio», disse Quadri con accento generico e come pensando ad altro. «E più ci si vive, più si è conquistati da questa bellezza. Ma signora, non guardi soltanto ai monumenti, che sono notevoli senza dubbio, ma non superiori a quelli delle città italiane. Giri, si faccia accompagnare da suo marito per i quartieri di Parigi. La vita in questa città ha una varietà di aspetti veramente sorprendente». «Per ora abbiamo visto poco», disse Giulia, che non pareva rendersi conto del carattere convenzionale e quasi ironico dei discorsi di Quadri, e quindi, rivolta al marito, tendendo una mano a toccargli la sua carezzevolmente: «Ma gireremo, non è vero, Marcello?» «Sicuro». «Dovrebbero riprese Quadri sempre con lo stesso tono, dovrebbero soprattutto conoscere il popolo francese. È un popolo simpatico, intelligente, libero e, sebbene ciò contraddica in parte l'idea che di solito ci si fa dei francesi, anche buono. In loro l'intelligenza così fine e sensibile è diventata una forma di bontà. Conoscono qualcuno a Parigi? Non conosciamo nessuno, rispose Marcello. E d'altronde temo che non sarà possibile, ci fermiamo appena una settimana. Peccato, veramente peccato. Non si può apprezzare nel suo vero valore un paese se non se ne conoscono gli abitanti. Parigi è la città dei divertimenti notturni, non è vero? Domandò Giulia, che pareva trovarsi perfettamente a suo agio in questa conversazione da manuale turistico. Noi non abbiamo visto ancora nulla, ma vogliamo andarci. Ci sono tante sale da ballo e locali notturni, non è vero? Ah, sì, i tabarin, le boîtes, le scatole come le chiamano qui, disse il professore con aria distratta. Montmartre, Montparnasse, noi, a dir la verità, non le abbiamo mai frequentate molto. Qualche volta, al passaggio di un amico italiano, abbiamo approfittato della sua ignoranza in tale materia per istruirci noi stessi. Sempre le stesse cose, però, seppure fatte con la grazia e l'eleganza che sono proprie a questa città. Vede, signora, il popolo francese è un popolo serio, molto serio, con abitudini fortemente familiari. Forse la stupirò dicendole che la grande maggioranza dei parigini non ha mai messo il piede nelle boîte. La famiglia qui è molto importante, ancora più che in Italia, e sono spesso dei buoni cattolici, più che in Italia, con devozione meno formale, più sostanziosa. Così non è sorprendente che le boîte le lascino a noi altri stranieri, un'ottima fonte di denaro del resto. Parigi deve una buona parte della sua prosperità proprio alle boîte e in generale alla sua vita notturna. Curioso, disse Giulia. Io credevo invece che i francesi si divertissero molto di notte. Arrossì e soggiunse. Mi avevano detto che i tabarin stanno aperti tutta la notte, che sono sempre pieni come da noi un tempo di carnevale. Sì, disse il professore distrattamente. «Ma coloro che ci vanno sono in prevalenza stranieri?» «Non importa», disse Giulia. «Mi piacerebbe molto vederne almeno uno, se non altro per poter dire di esserci stata». La porta si aprì e la signora Quadri entrò reggendo sulle due mani un vassoio con il bricco e le tazze del caffè. «Scusatemi», disse allegramente, chiudendo con un piede la porta. «Ma le cameriere francesi non sono come quelle italiane». Oggi era giornata di libertà per la mia cameriera e se n'è andata subito dopo colazione. Bisogna fare tutto da noi. Era veramente allegra, pensò Marcello, in una maniera impreveduta. E c'era molta grazia in questa allegria e nei gesti della grande persona leggera e disinvolta. Lina, disse il professore perplesso, la signora Clerici vorrebbe vedere una boîte. Quale possiamo raccomandarle? «Oh, ce ne sono tante, non è davvero la scelta che le manca», ella rispose lietamente, versando il caffè nelle tazze, la persona intera appoggiata su una gamba, l'altra protesa in fuori, come a mostrare il grande piede calzato di una scarpa senza tacco. «Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le borse». Diede a Giulia la tazza e poi soggiunse sbadatamente, «Ma si potrebbe portarceli noi, Edmondo, in una boîte». «Sarebbe una buona occasione per te di distrarti un poco». Il marito si passò una mano sul mento come se avesse voluto accarezzarsi la barba e rispose «Certo, sicuro, perché no?». «Sapete che facciamo?» Ella continuò servendo il caffè a Marcello e al marito. «Siccome dobbiamo cenare fuori in ogni caso, ceniamo insieme in un piccolo ristorante della riva destra, non caro, ma dove si mangia bene, le coq au vin». E poi, dopo cena, andiamo a vedere un locale molto bizzarro. Ma la signora Clerici non dovrà scandalizzarsi. Giulia rise, rallegrata da questa allegria. No, non mi scandalizzo così facilmente. È una boîte che si chiama La Cravate Noire, la cravatta nera. Ella spiegò sedendosi sul divano accanto a Giulia. È un locale dove vanno delle persone un poco particolari. Soggiunse guardando Giulia e sorridendo. Come sarebbe a dire? delle donne dai gusti speciali, vedrà. La padrona e le cameriere sono tutte smoking con la cravatta nera, vedrà. Sono così buffe. Ora capisco, disse Giulia un po' confusa, ma possono andarci anche degli uomini? Questa domanda fece ridere la donna. Ma si capisce, un luogo pubblico, una piccola sala da ballo tenuta da una donna di gusti particolari, molto intelligente del resto, ma ci va chiunque vuole andarci, non è mica un convento. Rideva a piccole scosse guardando Giulia, poi soggiunse con vivacità: ma se non le piace possiamo andare in un altro luogo, meno originale però. No, disse Giulia, andiamoci pure, mi incuriosisce. Delle disgraziate, disse il professore genericamente. Si levò in piedi. Caro Clerici, voglio dirle che mi ha fatto molto piacere vederla e ancor più mi farà piacere cenare stasera con sua moglie e con lei parleremo. Lei ha sempre gli stessi sentimenti e le stesse idee di allora. Marcello rispose con calma: non mi occupo di politica. Tanto meglio, tanto meglio. Il professore prese la mano e, stringendola tra le sue, soggiunse: allora possiamo forse sperare di conquistarla, in tono dolce, accorato e struggente, come un prete che parli ad un ateo. Si portò la mano al petto in direzione del cuore e Marcello poté vedere con stupore che nei grossi occhi tondi e sporgenti un luccicore di pianto sviava e rendeva implorante lo sguardo. Poi, come a nascondere questa sua commozione, Quadri andò in fretta a salutare Giulia e uscì dicendo: «Mia moglie si metterà d'accordo con voi per stasera». La porta si chiuse e Marcello, un po' impacciato, sedette in una poltrona davanti al divano sul quale stavano le due donne. Adesso, partito Quadri, l'ostilità della moglie gli sembrava evidente. Ella ostentava di ignorare la sua presenza e di parlare soltanto a Giulia. «E lei ha già veduto i negozi di mode, le sarte, le modiste, Rue de la Paix, il Faubourg Saint-Honoré, Avenue de Matignon?» «Veramente?» disse Giulia con l'aria di chi udisse per la prima volta quei nomi. «Veramente no. Le piacerebbe vedere quelle strade, entrare in quel negozio, visitare qualche casa di mode? Le assicuro che è molto interessante», continuò la signora Quadri con una affabilità insistente, insinuante, avvolgente, protettiva. «Ah sì, certo!» Giulia guardò il marito e poi soggiunse: «Vorrei anche comprare qualche cosa, un cappello per esempio». «Vuole che ve la porti io?» propose la donna, giungendo alla conclusione obbligata di tutte quelle domande. «Conosco bene alcune case di moda. Potrei anche darle qualche consiglio». «Magari!» disse Giulia con malsicura gratitudine. «Vogliamo andarci oggi, questo pomeriggio, tra un'ora? Lei permette, non è vero che le porti via sua moglie per qualche ora?» Queste ultime parole furono rivolte a Marcello, ma con un tono assai diverso da quello adottato con Giulia, sbrigativo, quasi sprezzante. Marcello trasalì e rispose: «Si intende? Se a Giulia fa piacere». Gli parve di capire che la moglie avrebbe preferito sottrarsi alla tutela della signora Quadri, almeno a giudicare dallo sguardo interrogativo che ella gli rivolse, e si accorse di risponderle a sua volta con uno sguardo che le ordinava di accettare. Ma subito dopo si domandò: «Lo faccio perché questa donna mi piace e voglio rivederla, oppure lo faccio perché sono in missione e non mi conviene di scontentarla?» Gli parve improvvisamente molto angoscioso di non sapere se facesse le cose perché gli piaceva farle o perché convenivano ai suoi piani. Intanto Giulia obiettava: «Veramente pensavo di andare un momento all'albergo», ma l'altra non la lasciò finire. «Lei vuole rinfrescarsi un poco prima di uscire e fare un po' di toiletta, ma non è necessario che vada fino all'albergo. Se vuole può anche riposare qui, sul mio letto. So com'è affaticante quando si viaggia, girare tutto il giorno senza un sol momento di sosta, soprattutto per noi donne. Venga, venga con me, cara». Prima che Giulia avesse potuto fiatare, ella l'aveva già costretta ad alzarsi dal divano e ora la spingeva dolcemente ma fermamente verso la porta. Sulla soglia, Quasi a rassicurarla, le disse in tono agrodolce: «Suo marito l'aspetterà qui. Non abbia paura, non lo perderà». Poi, cingendole la vita con un braccio, l'attirò nel corridoio e chiuse la porta. Rimasto solo, Marcello si levò di scatto in piedi e mosse qualche passo per la sala. Gli pareva chiaro che la donna nutriva contro di lui un'avversione irriducibile e avrebbe voluto conoscerne il motivo. Ma a questo punto i suoi sentimenti diventavano confusi. Da un lato, l'addolorava l'ostilità di una persona come quella da cui avrebbe voluto invece essere amato. Dall'altro, l'idea che ella sapesse la verità sull'esser suo lo preoccupava, perché in tal caso la missione, oltre che difficile, diventava anche pericolosa. Ma ciò che lo faceva soffrire di più, forse, era di sentire come queste due diverse inquietudini si confondessero e lui non fosse quasi più capace di distinguere l'una dall'altra, quella dell'amante che si vede respinto da quella dell'agente segreto che si teme scoperto. D'altra parte, come comprese con un rigurgito dell'antica malinconia, anche se fosse riuscito a dissipare l'ostilità della donna, sarebbe poi stato costretto una volta di più a mettere i rapporti che potevano seguirne al servizio della missione, come quando aveva proposto al ministero di abbinare il viaggio di nozze all'incarico politico, come sempre. Alle sue spalle la porta si aprì e la signora Quadri rientrò. Si avvicinò al tavolo e disse: «Sua moglie era molto stanca e credo che si sia assopita sul mio letto. Più tardi usciremo insieme». «Questo vuol dire», disse Marcello con calma, «che lei mi manda via». «Oh, Dio mio, no», ella rispose in tono freddo e mondano. «Ma io ho molto da fare, il professore anche. Lei sarebbe costretto a rimanere solo qui nel salotto. C'è di meglio da fare per lei a Parigi». «Mi scusi», disse Marcello mettendo le due mani sulla spalliera di una poltrona e guardandola, «ma mi sembra che lei mi sia ostile, non è così?» Ella rispose subito con precipitosa intrepidezza: «E la stupisce?» «Veramente sì», disse Marcello. «Non ci conosciamo affatto. Oggi è la prima volta che ci vediamo». «Io la conosco benissimo», ella l'interruppe, «anche se lei non conosce me». «Ci siamo», pensò Marcello. Si accorse che l'ostilità della donna, confermata ormai in maniera indubitabile, destava nel suo cuore un dolore acuto, quasi da gridarne. Sospirò, angosciato, e disse piano: «Ah, lei mi conosce?» «Sì», ella rispose, gli occhi scintillanti di luce aggressiva. «So che lei è un funzionario della polizia, una spia pagata dal suo governo. Si stupisce adesso che le sia ostile? Non so gli altri, ma io non ho mai potuto soffrire le mouchard, le spie», soggiunse traducendo dal francese con una cortesia insultante. Marcello abbassò gli occhi, tacendo per un momento. La sua sofferenza era acuta. Il disprezzo della donna era come un ferro sottile che gli frugasse senza pietà in una ferita aperta. Disse finalmente: «E suo marito lo sa?» «Ma certamente», ella rispose con un suo ingiurioso stupore. «Come può pensare che lui non lo sappia? È stato lui a dirmelo». «Ah, sono bene informati», non poté fare a meno di pensare Marcello. Riprese in tono ragionevole: «Perché allora ci avete ricevuti? Non sarebbe stato più semplice rifiutare di riceverci?» «Io infatti non avrei voluto», ella disse, «ma mio marito è diverso. Mio marito è una specie di santo. Crede ancora che la bontà sia il miglior sistema». «Un santo molto furbo», avrebbe voluto rispondere Marcello. Ma gli venne in mente che era proprio così. I santi dovevano essere stati tutti molto furbi. E tacque, soggiunse: Mi dispiace che lei mi sia così ostile, perché lei mi è molto simpatica. Grazie, la sua simpatia mi fa orrore. Marcello ebbe più tardi a domandarsi che cosa gli fosse successo in quel momento. Come un abbagliamento che pareva partire dalla fronte luminosa della donna e al tempo stesso un impulso profondo, violento, possente, mescolato di turbamento e di disperato affetto. Si accorse ad un tratto che era presso la signora Quadri, che le girava un braccio intorno alla vita, che l'attirava, che le diceva a voce bassa: «E anche perché lei mi piace molto». Stretta contro lui, in modo che Marcello poteva sentire la tenerezza gonfia del petto di lei palpitare contro il suo, ella lo guardò un momento interdetta, quindi «Perfetto!» gridò con voce stridula e trionfante. «Perfetto! In viaggio di nozze, tuttavia, pronto a tradire sua moglie! Perfetto!» Fece un gesto furioso per liberarsi dal braccio di Marcello, aggiungendo: «Mi lasci o chiamo mio marito!» Marcello subito la lasciò, ma la donna, trasportata dal suo impulso ostile, si rivoltò contro di lui come se egli l'avesse ancora trattenuta e lo schiaffeggiò sulla guancia. Ella sembrò pentirsi subito del suo gesto. Andò alla finestra, guardò un momento di fuori e poi, voltandosi, disse bruscamente: «Mi scusi». Ma parve a Marcello che ella non fosse tanto pentita quanto timorosa dell'effetto che poteva produrre lo schiaffo. C'era, come pensò, più calcolo e buona volontà che rimorso nel tono restio e ancora malevolo della sua voce. Egli disse con decisione: «Ora non mi resta davvero che andarmene. La prego di avvertire mia moglie di farla venire qui. E ci scuserà con suo marito per stasera. Gli dirà che mi ero dimenticato di avere un altro impegno». Questa volta, pensò, era proprio finita. E anche la missione, nonché il suo amore per la donna, era compromessa. Fece per ritirarsi fuori dal cammino che ella doveva percorrere per andare alla porta. La vide, invece, guardarlo fissamente un istante, fare con la bocca una smorfia di scontento capriccioso e poi venirgli incontro. Marcello notò che nei suoi occhi si era accesa una fiamma torbida e decisa. Giunta a un passo da lui, ella alzò lentamente un braccio e di lontano portò la mano alla guancia di Marcello e disse: «No, non se ne vada. Anche lei mi piace molto. Se sono stata così violenta, ciò si deve appunto al fatto che lei mi piace. Non se ne vada e dimentichi quanto è avvenuto». Intanto, con la mano, gli faceva una lenta carezza tutto intorno alla guancia con un gesto goffo ma sicuro, pieno di volontà imperiosa, quasi a toglierne il bruciore recente dello schiaffo. Marcello la guardava. Guardava la sua fronte e sotto lo sguardo di lei, al contatto un po' ruvido della mano maschile, sentiva con stupore, poiché era la prima volta in vita sua che lo provava, un turbamento profondo, commosso, pieno di affetto e di speranza, gonfiargli il petto, impedirgli il respiro. Ella gli stava davanti, il braccio teso, carezzandolo, ed egli, in un solo sguardo, ebbe il senso della sua bellezza come di qualche cosa che gli era destinata da sempre, quasi una vocazione della sua vita intera, e capì di averla amata sempre, prima di quel giorno, anche prima di quando l'aveva presentita nella donna di S. Sì, pensò, questo era il sentimento d'amore che avrebbe dovuto nutrire per Giulia se l'avesse amata, e che invece provava per questa donna che non conosceva. Poi si mosse verso di lei, le braccia tese, e fece per abbracciarla, ma la donna si svincolò subito, seppure in maniera che gli parve affettuosa e complice, e mettendosi un dito sulle labbra mormorò: «Adesso vattene, ci vediamo stasera». Prima ancora che Marcello potesse rendersene conto, ella l'aveva fatto uscire dal salotto, l'aveva spinto nel vestibolo, aveva aperto la porta. Poi la porta si chiuse e Marcello si ritrovò solo sul pianerottolo.